Nerdcast presenta Onigiri. Rubrica di manga, anime, Giappone e quant'altro. Benvenuti a tutti ascoltatori, io sono Murtag, questa è la prima puntata di Onigiri, che prima era lo spazio rispetto a Giappone, manga, di Nerdcast che progressivamente è venuta meno, quindi rimediamo con questa rubrica. Non è la sola rubrica del podcast, molto velocemente ci sono state varie novità rispetto al feed, difatti verrà aggiornato quasi ogni settimana con le rubriche anche degli altri conduttori. La prossima settimana avremo la rubrica di Rampage, che riguarda lui mentre gioca Minecraft e dice le solite stronzate. Poi ci sarà quella di Garriden, della quale non so poco anch'io. Comunque tenete d'occhio il feed perché verrà costantemente aggiornato. Ci saranno insomma delle novità più o meno importanti e speriamo anche simpatiche. Prima di iniziare abbiamo i contatti del podcast, l'email è nerdocast@gmail.com, blog è nerdpodcast.blogspot.com, i Twitter sono nerdfats, devilsir92, wishfreedom e malloman. Abbiamo una pagina anche su Facebook, se vi piace il podcast venite a mettere un like o a dare qualche insulto così. E chiaramente potete trovarci anche su iTunes digitando Nerdcast. Prima di iniziare l'ultima cosa, con l'introduzione delle rubriche forse il feed lo troverete un po' intasato. Se vi dà fastidio questa cosa potete andare molto semplicemente sul blog di Nerdcast e selezionare i feed delle rubriche o del podcast che vi interessano singolarmente. Così magari se odiate Onigiri, se odiate la mia voce, potete cacciarmi dall'aggiornamento del feed. Quindi ecco, è tutto più semplice, diciamo. Detto questo, la rubrica di solito sarà molto breve, giusto qualche notizia commentata velocemente, la classifica di Jump, qualche canzone pod safe, quindi io direi di iniziare con le notizie in breve di Giappone e manga. E iniziamo con la Golden Week, Golden Week che ricorre ogni anno. Che cos'è la Golden Week per chi non lo sapesse? È quel periodo che ricorre di solito verso fine aprile, in cui i giapponesi hanno una settimana intera e più di vacanza, appunto per questo Golden Week. Quest'anno sono 9 giorni, dura fino al 6 maggio, quindi praticamente finita. Appunto per gli standard, diciamo, di vacanze dei dipendenti giapponesi, la Golden Week è appunto un evento molto importante. Tutto questo per dire che in pratica in questo periodo dell'anno di solito ci sono più giapponesi sparsi per il mondo che vanno a godersi un po' le loro vacanze. È iniziata anche la Cool Beats, diciamo campagna, iniziata anche, promossa anche l'anno scorso dal governo giapponese. Che cos'è? È appunto una campagna per il risparmio dell'energia. con l'ultima centrale nucleare che viene chiusa in Giappone, chiaramente il Giappone deve un attimo cercare di risparmiare i consumi di energia. Quindi la Cool Beats si, diciamo, promuove dei comportamenti di risparmio, per esempio i dipendenti che da sempre hanno un codice di abbigliamento molto stretto, ecco, in Giappone adesso hanno la possibilità di vestirsi come credono per far fronte al caldo e dunque non utilizzare per esempio i condizionatori, o cercare comunque in qualche modo di combattere il caldo, per sempre per cercare di non sprecare fin troppa energia. Un'iniziativa ottima, chiaramente. E Adobe, compagnia che conosciamo tutti, no? Per Photoshop, eccetera, ha fatto un sondaggio interpellando circa 5.000 persone, chiedendo loro quale fosse la città più creativa del mondo. E col 30% dei voti, Tokyo è stata eletta la città più creativa del mondo tramite questo sondaggio di Adobe. Poi, vabbè, creativa bisogna vedere cosa si intende, perché creativa si possono sottintendere tantissime cose, però sicuramente non solo Tokyo, ma il Giappone in generale, almeno secondo me, è la nazione dove ci sono più idee che circolano, più creazioni, ma diciamo più a livello artistico che altro. Continuando con una nota a margine, notizia poco interessante in realtà, che però mi va di riportare. Apre in Giappone uno dei McDonald's più grandi del mondo, sarà grande, è grande, 795 metri quadri, ci saranno oltre 328 posti per persone, in espansione, fino a diventare, diciamo, il McDonald's più grande del mondo, in pratica. E dopo una notizia totalmente inutile, passiamo ad una notizia invece molto importante. Primo Gay Pride del 2012, svolto a Tokyo, appunto in Giappone, e la manifestazione aveva il titolo di Power of Rainbow. Il problema, se problema lo si può chiamare, è che i partecipanti erano solo 2500, diciamo solo tra virgolette, però 2500 per un Gay Pride a Tokyo, con l'affluenza di gente che c'è a Tokyo, mi sembra un po' poco, dire la verità. Giappone è sempre stato una di quelle nazioni che fatica ad accettare le differenze sessuali, diciamo, però anche noi italiani non è che possiamo proprio parlare, quindi. Passiamo ad una notizia parecchio triste, cioè che intristisce tantissimo. Preparatevi perché è davvero triste. Allora, tale Taichi Takashita, un ragazzo appunto giapponese, ha creato questa petizione, che si può trovare anche online, per arrivare a 1 milione di firme da mandare al governo, affinché il governo crei una legge che permetta ai giapponesi, e non solo, diciamo agli esseri umani, di sposarsi con i personaggi degli anime. Totalmente folle, che altro si può dire, folle e basta. Finora le firme sono arrivate a 1000, servono appunto 1 milione di firme. Credo non si raggiungeranno mai, perché la cosa è folle, ma anche se dovessero raggiungere, insomma, non credo che il governo giapponese accolga una proposta del genere. Continuando con invece notizie relative al mondo dei manga, iniziamo con una notizia che ha un po' intristito qualcuno, me no sinceramente. Fine di Bakuman, la fine di uno dei manga sicuramente più innovativi degli ultimi anni. Gli autori, ricordiamo, erano Takeshi Oba e Tsugumi Obata, autori anche congiuntamente di Death Note. Finirà, è già finito anzi, il 23 di aprile. L'episodio conclusivo sarà all'interno dei numeri 21 e 22 di Weekly Shonen Jump. L'ultimo volume che uscirà sarà il numero 20, quindi anche qua in Italia siamo molto vicini alla fine. Notizia che aspettavo anch'io da tantissimo tempo: finalmente Rei Hiroe, autore e disegnatore di Black Lagoon, annuncia il suo ritorno dopo 2 anni di riposo. Lui dice: ho paura di disegnare realmente, per questo mi sono perso 2 anni di riposo. Beh, insomma, sei un mangaka, se non sai disegnare che cos'altro vuoi fare, fammi capire. Poi ha fatto Black Lagoon, che ha fatto un successo pazzesco. Probabilmente saprei disegnare, quindi meno male che sei tornato. Quindi finalmente Black Lagoon ritorna, non si sa bene quando, però Rei Hiroe è al lavoro. Insomma, finalmente si ritorna. Notizia molto bella, la prima serie di Lupin III, perché per chi non lo sapesse non è quella filone di cartoni, di anime che vediamo, che abbiamo visto recentemente negli ultimi anni. La prima vera e propria serie di Lupin III andò in onda nel 71, finì nel 72. Stilisticamente una delle migliori, secondo me. Molti degli episodi vennero diretti e prodotti da Studio Ghibli, famosissimo studio di Hayao Miyazaki. Appunto, i primi 23 episodi di Lupin III, la serie originale, in DVD, usciranno il 26 giugno in America e probabilmente chiaramente anche in Europa. Qualcosa che i fan di Lupin III e non, comunque, i fan degli anime in generale non dovrebbero lasciarsi scappare. Altra notizia legata a DVD, forse un po' meno interessante, dipende. Hatsune Miku in DVD. Molto brevemente, chi è Hatsune Miku? Per chi non lo sapesse, Hatsune Miku è questa ragazza robot creata appunto virtualmente, che canta con un plugin simile a quello dell'autotune, chiamato Vocaloid, diciamo che è una sorta di autotune, e appunto si esibisce anche live, soprattutto, anzi solo in Giappone. Comunque, se volete togliervi ogni dubbio, cercate Hatsune Miku su YouTube, la vedrete live. Voi direte, se è virtuale, com'è che fa concerti live? Li fa, ragazzi, vi assicuro. Sulla musica devo dire la mia opinione è pessima. orribile davvero la musica, tranne qualche canzoncina, però diciamo la realizzazione del personaggio è fatta bene, molto giapponese, quindi su YouTube tutte le risposte, insomma. Continuando, una notizia molto breve ma che mi fa molto piacere. Gioco di Rurouni Kenshin in arrivo in estate. In estate, in Giappone chiaramente, poi non si sa quando in Europa. La notizia a me personalmente fa molto piacere perché Rurouni Kenshin, uno dei manga secondo me più belli proprio di sempre, il mangaka era Nobuhiro Watsuki. Appunto mancava di una release in versione videoludica, finalmente l'avremo, quindi ottimo. Notizia che magari molti di voi già sapranno, ma che mi va di discutere brevemente. In America stanno già uscendo i DVD della serie Dragon Ball Z in Blu-ray. E conseguentemente questo ha portato anche a parlare del ritorno di Akira Toriyama, autore appunto di Dragon Ball. Ritorno che a me è sempre sembrato un po' un fake, sinceramente. Mi sembra molto strano un ritorno così di getto di Akira Toriyama, ma soprattutto mi sembra strano perché pare voglia continuare anche Dragon Ball partendo dalla serie Z, poiché appunto la serie GT non è riconosciuta come, diciamo, facente parte del filone ufficiale di Dragon Ball. Se dovesse essere vero, credo, spero non sia vero perché non se ne parla più, direi che è una notizia pessima, perché il ritorno di Toriyama non è pessimo assolutamente, però basta Dragon Ball, ragazzi. Cioè, Toriyama sa fare tantissime altre cose, Dragon Ball ha già dato, è bellissimo così com'è, basta, andiamo avanti, cerchiamo di creare altro. Con Dragon Ball finiamo questa prima breve parte di Onigiri. Anche qua ho deciso di inserire qualche canzone Podsafe, rigorosamente giapponese. Gli artisti in questione sono appunto provengono da giamento.com. Si chiamano Graphics Groove, sono appunto giapponesi. Tra i vari artisti Podsafe che ho ascoltato in questi anni, loro sono secondo me tra i migliori, sicuramente tra i miei preferiti. Si chiamano appunto Graphics Groove, questa è Echo Blue dal loro album appunto Graphics Groove su giamento.com. Buon ascolto. Ed erano i Graphics Groove, la canzone si chiamava Echo Blue, da Jamendo.com, artisti giapponesi. Continuiamo molto tranquillamente con, prima di parlare della classifica di Shonen Jump numero 21-22, parliamo un po', andiamo a rivedere un po' i manga più venduti solo in Giappone nel 2011. Una classifica sempre molto interessante da andare a studiare. Dando uno sguardo in realtà molto veloce a quella del 2010, primo sempre One Piece, secondo Naruto, terzo Kimi no Todoke, quarto Fairy Tail, quinto Bleach, sesto Fullmetal Alchemist, settimo Gintama e così via. Partiamo dunque con quella del 2011, un po' più recente, anche se sono passati già 4 mesi. Partiamo dalla posizione numero 10. Decimo manga più venduto in Giappone nel 2011, Gantz, con 4 milioni di copie. Manga non tanto famoso in realtà fuori dal Giappone, un po' a sorpresa, però diciamo può anche starci. Nona posizione per Kimi no Todoke, 4.1 milioni venduti. Stesso discorso di Gantz, un po' più, sicuramente un po' più popolare in Italia. Ottava posizione, sicuramente più interessante anche da discutere, da capire, analizzare. Ottava posizione dei manga più venduti in Giappone nel 2011, Bleach di Tite Kubo, con 4.18 milioni copie vendute. E cosa dire? Bleach, l'ho già detto un po' nelle puntate scorse di Nerdcast, Bleach ha avuto un'annata difficilissima. Reo è stato anche Tite Kubo, che a un certo punto secondo me è impazzito, ha cercato di trasformarsi, ha trasformato Bleach in uno shoujo, pseudo shoujo, capitoli, interi capitoli pieni di situazioni inutili, di discorsi inutili che in un manga di combattimento ci stanno, ma pochi. Cioè, in un manga di combattimento devi far vedere un attimo le situazioni di combattimento, appunto. Non è che puoi trasformarlo in un manga così di aspettativa. Non è Bleach questo. Non mi è piaciuto sinceramente il cambiamento. Io che di solito i cambiamenti li approvo quasi sempre, questo cambiamento è stato un po' troppo radicale, fatto male. Chiaramente sto cercando di tenermi il più possibile fuori dalla zona spoiler, per chi non conoscesse Bleach, lo volesse continuare in altre maniere, insomma. Continuiamo però, settima posizione, uno dei grandi sicuramente del 2011, Bakuman, con 4.3 milioni di copie vendute in Giappone nel 2011. Ci sta sicuramente Bakuman, uno dei migliori del 2011, una delle nuove entrate, diciamo, migliori nel 2011, con Toriko, di cui parleremo dopo. Sesta posizione per Gintama, 4 milioni e 4 di copie vendute nel 2011 in Giappone. Gintama sicuramente uno dei big degli ultimi anni, è strano che non sia conosciuto tanto quanto One Piece o Naruto o Bleach, cioè è conosciutissimo, però secondo me ha bisogno anche di un po' più di successo rispetto a quello che ha, perché è sicuramente un manga che è soprattutto un anime fatto molto molto bene. Quinta posizione, quella che secondo me è stata la rivelazione, il manga migliore del 2011, l'ho appena detto, appunto, Toriko. Toriko con 4 milioni e 6 di copie vendute nel 2011 in Giappone. Bellissimo, uscito anche da poco in Italia, ne approfitto per consigliarvelo. Siamo arrivati, in questo momento siamo al secondo volume di Toriko, è uno di quei manga che poi si recuperano verso la quindicesimo, sedicesimo volume. Bisogna andare a riprendere tutti i volumi dal primo, quindi approfittatene adesso che i volumi sono soltanto due e andate a prendere Toriko, che merita tantissimo. Continuando la nostra classifica, posizione numero 4, Fairy Tail, prevedibile, 4.7 milioni di copie vendute in Giappone. Terza posizione, Blue Exorcist, con 5.2 milioni di copie. Terza posizione, cioè terzo manga più venduto in Giappone nel 2011. Sinceramente è la sorpresa di questa classifica. Blue Exorcist, un bel manga sicuramente, edito anche in Italia da Planet Manga. Però sinceramente alla terza posizione dopo Toriko e Fairy Tail, non lo so, mi sembra un risultato più che ottimo per Blue Exorcist, che è un bel manga secondo me, ma non lo è stato come secondo me lo è stato Toriko o Bakuman nel 2011. Continuando, seconda posizione, molto facile intuirlo, Naruto. Naruto con 6.8 milioni di copie vendute in Giappone nel 2011, nonostante la fase tra virgolette calante, che secondo me è stata molto più breve di quella di Bleach, si è comportato molto bene Naruto. Prima posizione, chiaramente, One Piece. Ciò che è pazzesco non è tanto il fatto che One Piece sia primo tra i manga più venduti in Giappone nel 2011, è che il distacco dalla seconda posizione, in generale dalle altre posizioni, è tantissimo. Cioè, se Naruto ha venduto 6.8 milioni di copie, One Piece ha venduto quasi 38 milioni di copie in totale in un solo anno, che è quasi più di tutte le altre, tutti gli altri manga nella top 10. È un risultato allucinante. Passiamo ad analizzare dunque la classifica di Shonen Jump numero 21 e 22, numero appunto uscito, doppio numero. Sapete che Jump esce sia in edizione singola che in edizione doppia. Andiamo un po' a vedere questa classifica, non la vediamo tutta. Dalla prima alla sesta posizione abbiamo One Piece, di nuovo, imbattibile, è imbattuto. Seconda posizione per Naruto. Terza posizione per Toriko. Quarta posizione per Sked Dance. Quinta posizione Gintama. Sesta posizione Belzebub. La classifica mi è congeniale perché mi permette di consigliarvi anche altri due manga oltre Toriko. Per esempio Sked Dance. Sked Dance, anche Sked Dance è al secondo volume. Uno è un manga molto, molto fresco, in realtà è abbastanza classico, però è fresco, è divertente, l'autore ci sa fare, si vede, e ve lo consiglio sicuramente, con Toriko e con Belzebub, del quale un po' ho parlato già, ma comunque Belzebub è un manga anche questo con un po' di alti e bassi, ma divertente comunque. È un manga di pseudo combattimento, è sicuramente molto divertente. Se siete in vena di comprare, di sperimentare nuovi manga che non conoscete, Toriko, Sked Dance e Belzebub, tre scelte buonissime. Bleach, sempre a metà della classifica, non credo di fare uno spoiler qui, comunque se volete skippate un po' più avanti se non volete spoiler. È iniziata da poco tempo l'ultima saga di Bleach, dopo una pausa di almeno 3 settimane. È iniziata la nuova saga di Bleach, adesso chiaramente non vi dirò i punti salienti, però... almeno per questi primi capitoli, per chi segue le scans, insomma, lo saprà. Questi primi capitoli, sì, sembra essere ritornato un po' il Bleach di una volta, però stiamo un po' ad osservare, vediamo un po' dove arriva. Comunque, per Bleach la posizione è a metà della classifica, quasi decimo, diciamo. L'ultima parte della classifica è in realtà poco interessante. Quart'ultimo Bakuman, che come abbiamo detto arriva alla fine in questo numero di Jump. Due parole sulla fine di Bakuman. C'è chi si dispera, come sempre, quando finisce un manga c'è chi si dispera, no, ma perché finisce, eccetera. E io dico questo, i manga devono pur finire prima o poi, perché sennò... se non c'è una base solida, una storia solida, un character design solido, poi a lungo andare il manga diventa banale, come capita a moltissimi manga. E come secondo me sarebbe capitato anche poi a Bakuman, che per carità è un bellissimo manga, però ha dei momenti pure abbastanza morti, molto pesanti, quindi... Perché sì, è sicuramente difficile come genere da gestire. Tsugumi Oba e Takeshi Obata l'hanno fatta... Hanno avuto grandissima esperienza a protrarlo per 20 volumi, adesso basta, cioè... problema fondamentale per Jump nel 2011 è stato, diciamo, è stata la ricerca di nuove serie d'impatto. Forse le uniche due sono state Bakuman e Toriko. Molte, moltissime serie sono nate, sono durate davvero pochi mesi e poi sono state cancellate. Chiudendo appunto questa parte di commento di Shonen Jump, diciamo che nei prossimi numeri, a partire dal prossimo numero 23 e sul numero 25 avremo altre due serie su Jump, i cui titoli sono Koisome Momiji numero 23, sul numero 25 avremo Sensei no Balghe, che sembra promettere abbastanza, però più di questo non possiamo vedere. Stay tuned su Onigiri, se usciranno le scans vedremo di commentarle. Per chiudere, spazietto anime, cioè gli anime consigliati, anime nuovi consigliati, anime vecchi consigliati. Come anime nuovo, uscito a inizio aprile, quindi molto nuovo, anche se è tratto da un manga abbastanza conosciuto, è Dusk Maiden of Amnesia, in Giappone edito su Gangan. In Italia mi pare non ci sia ancora. È simpatico, è un bel manga, tratto dall'anime, cioè un bell'anime tratto da un bel manga. Mi piace perché comunque riesce a mixare bene horror con humor, che è una cosa non banale da fare. Molti ci provano, non ci riescono. Dusk Maiden of Amnesia si propone di essere un anime horror, però ci sono vari risvolti humor molto simpatici, qualche pizzico di hentai che non fa mai male. Dunque, se non lo conoscete, potete rispolverarlo adesso. Invece, anime vecchio da consigliare, ne ho parlato prima, ve lo consiglio a tutti quanti. Rurouni Kenshin, Samurai Vagabondo. Secondo me uno dei manga migliori di sempre, non solo degli ultimi anni. Se non lo conoscete, rispolveratelo, perché merita tantissimo. Bene ragazzi, Onigiri è finito, molto semplice e veloce. I contatti in chiusura del podcast. Dunque, nerdcast@gmail.com è la mail del podcast, nerdpodcast.blogspot.com è invece il blog dove troverete anche tutte le puntate. I Twitter sono quello del podcast Nerdfats, quello di Garriden e Devilsir92, quello di Rampage è Wish Freedom, quello di Mallomen è appunto Mallomen. Siamo su iTunes, ci trovate digitando Nerdcast, e abbiamo una pagina Facebook, se vi va venite a mettere un like. Detto questo, ragazzi, io vi lascio, noi ci rivediamo probabilmente nella prossima puntata di Nerdcast, che dovrebbe arrivare, si spera, a fine mese. Intanto tenete d'occhio il feed, perché arrivano sia la rubrica di Rampage che la rubrica di Garriden, quindi cerchiamo un po' di mantenere questo feed attivo. Benissimo, ho detto tutto quanto, lasciate dei commenti se vi va. Questa è l'ultima canzone, sempre Graphics Groove, sempre argomento.com giapponesi. La canzone si chiama Sea Green, loro sono i Graphics Groove. Buon ascolto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!